Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata 181 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di energia e di smart grid. Cari ascoltatori, molte volte in questa trasmissione abbiamo parlato di energia, di fonti di energia. Questa trasmissione avrà un taglio un pochino diverso. In questa puntata ci occuperemo di come l'energia viene distribuita. Ne parleremo trattando un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive intitolato The Role of Power Line Communication in the Smart Grid, e ne parleremo con la professoressa Anna Scaglione, professoressa presso l'Università di California e senior member dell'IEEE, ovvero dell'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici. Buongiorno Anna. Buongiorno Fabio, grazie per avermi chiesto di partecipare a questo programma. Anna, con te parleremo di questo articolo, di questo paper pubblicato appunto su Archive, e parleremo in particolar modo delle cosiddette smart grid, le cosiddette reti intelligenti per la distribuzione di energia. In 100 parole, riusciresti a riassumermi il contenuto di questo paper, cioè di che cosa parleremo in questa trasmissione? La trasmissione parlerà di un articolo che abbiamo scritto con il mio collega Stefano Galli e Zifan Wang, che è un membro del mio laboratorio, su smart grid e in particolare sul fatto di utilizzare come mezzo trasmissivo per questa nuova rete di informazione che dovrà aumentare l'efficienza della distribuzione di energia. Utilizzare le stesse linee di trasmissione della potenza anche come un mezzo di comunicazione. L'opportunità che esiste infatti è quella di utilizzare la stessa linea che trasporta l'energia anche come il mezzo trasmissivo per scambiare informazione sulla transazione che avviene. Quindi in effetti qual è l'importanza che hanno o che potrebbero avere le smart grid nel nostro sistema energetico? L'importanza di smart grid è forse evidente a tutti, il motivo è quello di diminuire la dipendenza da carburanti fossili e l'aumentare l'efficienza del sistema nello sfruttare energia rinnovabile. L'idea di utilizzare una smart grid per distribuire energia in maniera più efficiente, quello che sta spingendo nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove reti di comunicazione per questa nuova applicazione. A questo punto, Anna, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torneremo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire che cosa sono le power line e soprattutto che cosa sono le smart grid, mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di analizzare più nel dettaglio il contenuto del vostro paper, che mi sembra molto corposo e molto interessante analizzare non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista culturale, visto che in qualche modo interessa e tocca la vita di tutti noi. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. sulla coda di White Castle dei Kismet torniamo in studio nella 181esima puntata di Cacciafotone, all'interno della quale stiamo parlando di reti di distribuzione di energia. Ne stiamo parlando con la professoressa Anna Scaglione, secondo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa, due giorni fa, su Archive, intitolato The Role of Power Line Communication in the Smart Grid. Allora, all'inizio della trasmissione, insieme alla professoressa Scaglione, abbiamo promesso che avremmo parlato appunto di smart grid e power line. Cominciamo dalla power line. Quando parliamo di power line, Anna, che cosa intendiamo esattamente? Power line è la stessa linea elettrica che distribuisce energia. In sostanza, ogni presa di corrente è collegata ad un cavo che trasmette energia elettrica ai vari dispositivi elettronici che connettiamo alla rete. E la rete di linee elettriche connette tutti coloro che vogliono utilizzare energia con vari generatori di energia. E è divisa in varie parti, la parte che è visibile agli utenti è quella cosiddetta low voltage, perché ovviamente è quella di distribuzione capillare dell'energia. Ma questa domanda di energia viene aggregata e linee di trasmissione dell'energia diventano considerevolmente concentrate e trasmettono queste linee ad alto voltaggio grandi quantità di energia a intere comunità. Progressivamente questa aggregazione della domanda consente alle compagnie che producono energia di essenzialmente soddisfare le esigenze dell'utenza attraverso la generazione di energia. Insomma, le power line sono come delle autostrade attraverso le quali si distribuisce in qualche modo l'energia prodotta in qualche luogo, se mi passi il gioco di parole. Esatto, le power line communications di per sé è un termine più vasto, e cioè dovunque ci sia una linea, un cavo che può trasmettere segnali elettrici, uno può anche trasmettere segnali elettrici che contengono informazione. E quindi l'idea di power line communications è dire, se c'è un cavo presente, ovviamente quello è potenzialmente un canale di comunicazione che può connettere le due terminazioni di questo cavo e che io posso utilizzare così come utilizzo i cavi Ethernet o i topini telefonici anche le fibre ottiche. Ma in termini di similitudine direi che le power line communication somigliano molto a quelle dei doppini telefonici, e quindi somigliano molto al tipo di connessioni che uno può ottenere con un cavo ADSL, per esempio. La sostanziale differenza è che i doppini telefonici sono stati disposti per comunicazione di dati e comunicazione di canali vocali. Invece le power line sono state disposte per trasmettere energia, come ho detto, quindi questo è un secondo uso, un uso secondario di queste linee per trasmettere informazioni. Anna, se ne è parlato molto sulla letteratura scientifica e sui media tradizionali delle cosiddette smart grid, e soprattutto perché Enel ha dichiarato di aver realizzato qui in Italia la più grande smart grid. Che cosa intendiamo quando parliamo di smart grid, che letteralmente vuol dire rete intelligente? Ma intelligente perché? Che cos'è smart grid? Smart grid è una rete di comunicazione, è una rete anche di computers che serve per controllare la generazione di energia e il soddisfare in tempo reale le esigenze, le richieste di energia che avvengono quando ci connettiamo alla rete, quando accendiamo i dispositivi elettronici. Quindi smart grid è di per sé è la rete di distribuzione dell'energia con questi cavi che trasmettono energia elettrica per accendere meccanismi, con al di sopra una rete di informazione che mantiene tutta l'informazione riguardo ai dispositivi che sono accesi e che intelligentemente gestisce la generazione di energia in maniera tale che il sistema sia efficiente. Quindi se ce lo dovessimo rappresentare con un'immagine, ce lo dovremmo rappresentare come una specie di ragnatela, una ragnatela intelligente. La ragnatela è, da una parte, questo sistema di distribuzione, come la rete idraulica che distribuisce acqua, la rete, la grid distribuisce energia elettrica. La cosa innovativa di Smart Grid è l'aggiungere al di sopra di questa rete una gestione della domanda e dell'offerta fatta in tempo reale in maniera tale che sia la più efficiente possibile. Da questo punto di vista bisogna stare attenti, anche i sistemi tradizionali hanno utilizzato vari sistemi di sensori, monitoraggio, e c'è una rete di informazione anche in sistemi che non sono qualificabili come Smart Grid. L'idea di Smart Grid è di essenzialmente portare questo concetto a una nuova generazione in cui questa informazione viene collezionata in tempo reale e viene utilizzata in maniera molto più efficiente. Allora Anna, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione, la parte più corposa, andremo a capire quali sono i contenuti del vostro paper pubblicato qualche giorno fa su Archive, in cui si analizzano, come da titolo, il ruolo delle Powerline Communication nelle Smart Grid. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Same story, different name. E questo è il secondo pezzo musicale dei Kismet che abbiamo scelto all'interno della 181esima puntata di Caccia Fotone. Bentornati in studio, quindi, cari ascoltatori, in questa puntata ci stiamo occupando di reti di comunicazione, o meglio, di reti di distribuzione di energia. Abbiamo introdotto l'argomento nella prima parte della trasmissione, mentre in questa seconda parte della trasmissione, insieme alla professoressa Anna Scaglione, cercheremo di spulciare il contenuto di un paper pubblicato su Archive intitolato The Role of Powerline Communication in the Smart Grid. Allora Anna, per cominciare, visto che è un paper molto corposo, un paper anche strutturato abbastanza bene, visto che nella prima parte c'è addirittura una descrizione di come va letto questo paper, la prima domanda che ti voglio fare è: quanto tempo ci è voluto per il tuo gruppo per scriverlo? Domanda interessante. L'articolo è stato rivisto una volta, quindi più o meno il periodo in cui questo articolo è stato scritto è di 7-8 mesi. Ovviamente non ogni giorno di quegli 7-8 mesi è stato dedicato alla scrittura dell'articolo, probabilmente per buttare giù il contenuto fondamentale ci saranno tre settimane. Però è difficile definire chiaramente quante ore uno ha lavorato su un articolo, perché appunto tra tre collaboratori ognuno suddivide prima i compiti e poi c'è una estensiva fase di revisione per rendere l'articolo più omogeneo e fluido, e quella è stata prolungata attraverso un periodo piuttosto lungo nel quale ovviamente solo saltuariamente noi dovevamo lavorare sull'articolo, quindi può sembrare un tempo spropositato, ma in realtà molte altre cose avvenivano durante quel periodo. Comunque insomma è stato un lavoro abbastanza monumentale, soprattutto per il mio collega Stefano Galli, che ha certamente inserito molte delle sue conoscenze su Powerline. Chiunque guardi ad un buon riferimento su Powerline Communications, questo articolo secondo me è un ottimo riferimento. Infatti Anna, ad essere sinceri, il vostro paper, adesso non per ripeterlo ancora una volta, è davvero ben strutturato, è come se fosse strutturato un po' in maniera didattica, no? Nella prima parte spiegate che cosa sono le power line e le smart grid e poi ne fate la loro analisi. Però restiamo sul pezzo e andiamo a analizzare uno dei concetti chiave che poi spiegate nel vostro paper, la cosiddetta SCADA. Che cosa intendiamo per SCADA? È un acronimo. SCADA sta per Sensory Control and Data Acquisition, è un acronimo che si riferisce a un modello di acquisizione dei dati ed è un classico modello che è utilizzato dagli ingegneri elettrotecnici per riferirsi a tutte le tecnologie di sensori e le reti di comunicazione che collegano questi sensori a un centro di controllo tipicamente. L'idea è essenzialmente partita dal riconoscimento del fatto che per distribuire energia efficacemente non era solo necessario creare motori con dei controlli locali per la generazione di energia o linee di trasmissione con dei controlli del flusso di elettricità che potessero ovviamente disabilitare le linee, ma era più generalmente necessario acquisire informazione in tempo differito, ma comunque relativamente breve, su quella che era la domanda di energia, così che la generazione di energia potesse essere determinata in base a quella che era l'aspettativa di domanda. Anna, mi permetto di andare un attimo alla fine del vostro paper per poi tornare all'inizio. Perché dite che l'architettura del sistema deve venire prima, addirittura mettendo un punto esclamativo? Perché l'architettura del sistema è anche più importante di che cosa viene trasmesso all'interno di questa architettura? Perché nessuno ha effettivamente nell'ambiente delle comunicazioni concepito una progettazione di rete che è dedicata al controllo automatico. In altre parole, al centro delle telecomunicazioni sono state problematiche relative a comunicazioni tra computers o comunicazioni tra peer-to-peer, tra esseri umani o comunicazioni broadcast di trasmissioni televisive o radiofoniche, ma non c'è stata ricerca su quale sia l'architettura giusta per il controllo automatico su vasta scala. Allora, a questo punto continuiamo ad andare per gradi. Nel vostro paper, al quinto paragrafo, analizzate il funzionamento delle power line nelle smart grid in basso, medio ed alto voltaggio. Ecco, come mai dividete l'analisi, la vostra analisi, in queste tre sezioni? Cosa differenzia l'una dall'altra? La rete di distribuzione dell'energia è organizzata in queste tre parti, quella capillare di distribuzione dell'energia che arriva nelle nostre case e quella low voltage. L'energia richiesta dalle varie abitazioni viene aggregata e eventualmente si arriva da quello che è chiamato medium voltage al high voltage che connette grossi generatori di energia alle varie zone servite dalla rete elettronica, dalla rete elettrica. Quindi non è per scelta, ma è per la fisionomia della rete è divisa in queste tre parti e il tipo di comunicazioni che uno può fare dipendono fortemente dal tipo di cavi che uno si ritrova. Per cui bisogna distinguere queste tre parti, perché il tipo di mezzo trasmissivo è diverso e quindi il tipo di comunicazioni che si possono effettuare sono diverse. Anna, con te stiamo arrivando poi al nodo che ci interessa di più all'interno di questo paper, però avviciniamoci per gradi. Qual è la differenza fra il far passare all'interno della rete un kilobit di dati, per esempio un pezzo di filmato su YouTube, oppure un kilowatt di energia? Che cosa cambia effettivamente, strutturalmente? La differenza è sostanziale. La quantità di dati in questo tipo di reti smart grid, di ciascuna interazione, tipicamente sarà molto piccola. L'unico vero problema di queste reti è che le trasmissioni vengano fatte in tempo reale. La trasmissione YouTube invece contiene in ogni emissione di dati un numero considerevole di dati da trasferire. E la differenza quindi sostanziale è che un evento di trasmissione di un video risulta in trasmissione di grande ammontare di dati, mentre nella rete di distribuzione dell'energia uno si aspetta molti piccoli eventi in cui la quantità di informazione è molto piccola, ma la cosa importante è non ritardare l'arrivo di quell'informazione alla destinazione. Il tipo di sforzi che sono fatti al momento nel creare queste reti smart grid, per esempio lo sforzo che Enel ha menzionato, sono fatti senza avere analizzato quale sia l'architettura giusta, e quindi probabilmente la rete di comunicazione utilizzata è sovradimensionata, non è altrettanto efficiente quanto potrebbe essere per la funzione che deve svolgere. La preoccupazione è che dopo che queste tecnologie sono state integrate in un progetto di rete che non è basato su una grande ricerca a priori, il problema può essere che la rete non riesca a fare quel controllo in tempo reale della distribuzione di energia che uno vorrebbe attuare. Il monito che l'articolo cercava di dare è di assicurarsi che l'architettura venga progettata adeguatamente. Anna, poi nel Fuori Onda abbiamo parlato anche delle fonti fossili, fonti di energia fossile, quindi carbone e petrolio, e fonti di energia rinnovabile tipo il sole e il vento. Stiamo vivendo in effetti una fase di transizione all'interno di questo mondo civilizzato che porterà la nostra civiltà nel futuro ad approvvigionarsi di energia attraverso le fonti rinnovabili. E allora all'interno di questa transizione la domanda chiave è importante: come reagisce il sistema che avete studiato, immettendo all'interno del sistema non energia proveniente da fonti fossili, ma energia proveniente da fonti rinnovabili? Quello che cambia, smart grid serve proprio per inserire più fonti di energia rinnovabile, perché il problema è il problema di generare quanto l'utenza vuole. L'energia rinnovabile non è controllabile come sono controllabili i generatori basati su carburante, per cui uno dovrebbe utilizzare una certa flessibilità nella richiesta di energia per riuscire a sfruttare i picchi di energia eolica, per esempio, invece anche utilizzare la capacità di ritardare certe richieste di energia per sopperire alla mancanza di energia. Quindi l'abilità di utilizzare in gran parte risorse rinnovabili dipende dal fatto di riuscire a strutturare e a modulare la domanda di energia. E attualmente la rete non è organizzata in questa maniera. Attualmente se io accendo un dispositivo elettronico ricevo energia immediatamente. Se vogliamo aggiungere più volatilità al sistema, dobbiamo o incrementare l'intelligenza del sistema oppure accettare più blackouts, e non credo che nessuno voglia accettare più blackouts. E allora rapidamente ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torniamo in studio la domanda zainetto. A dopo. Grande ciao. We'll be right back. E siamo nella fase finale di Cacciafotone, siamo ancora in compagnia con la professoressa Anna Scaglione, secondo autore di questo paper di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione, intitolato The Role of Powerline Communication in the Smart Grid. Anna, come al solito a tutti i nostri ospiti faccio una domanda, che è la cosiddetta domanda Zenetto. Se dovessi salvare una sola cosa fra tutte quelle che hai vissuto dal momento in cui hai realizzato questa ricerca, al momento in cui questa ricerca è stata pubblicata, quale delle tante cose salveresti? Quale delle tante cose metteresti nel tuo zainetto da ricercatrice? Ti porteresti dietro, insomma? La cosa importante per me in questo lavoro è lo sforzo di guardare a una tecnologia a livello di maturità che ha raggiunto, che è la Powerline Communications, e capire se una nuova applicazione, che è quella di Smart Grid, trova in questa tecnologia qualcosa di già pronto per l'utilizzo o meno. Questo è un tipo di analisi che ho fatto in questo articolo per la prima volta e ho trovato che questa fosse l'esperienza più formativa, il fatto di non buttare il lavoro fatto nello sviluppare standard per un particolare tipo di comunicazione e vedere però se è effettivamente già una tecnologia adeguata per una nuova applicazione o meno. E allora, con questa risposta della professoressa Scaglione si conclude la 181esima puntata di Cacciafotone. Vi aspetto alla 182esima puntata di Cacciafotone, quindi la settimana prossima. L'augurio è, come al solito, di buona scienza a tutti e mi raccomando, state bene. Ciao! E con chi stai parlando? Dici a me?